Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Concedere tiri ma non puliti al Barcellona vuol dire che la squadra difende in modo giusto, tatticamente, senza fare grandi falli. Abbiamo concesso solo un fallo dal limite dell'area sulla punizione a Messi e poi abbiamo concesso poche occasioni pulite. Ne abbiamo avute altrettante a campo aperto, potevamo sfruttarle meglio, però quando c'è da difendere bisogna difendere. Quando ci sono queste partite l'equilibrio è talmente sottile e il dettaglio fa la differenza. La consapevolezza di noi stessi, credo che dare tre gol al Barcellona alla partita d'andata, non subirne al Camp Nou, dimostra che siamo una grande squadra. Adesso ci sarà da fare un altro passo per arrivare a giocarci la finale a Cardiff. Sì, siamo proprio contenti per quello che siamo riusciti a fare questa impresa contro il Barcellona, siamo tutti veramente contenti. Noi oggi abbiamo fatto a tratti, abbiamo saputo soffrire, abbiamo fatto una fase difensiva, però quando c'era da proporre, da colpire, insomma l'abbiamo fatto con molta personalità e con molta efficacia. Molta efficacia, molta efficacia. Allora, dato che svolgiamo un servizio pubblico, mentre saluto Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, ed Edoardo Ravezzani in redazione, dato che svolgiamo un servizio pubblico, devo leggere gli sms che mi sono arrivati, anzi, i whatsapp che mi sono arrivati ancora prima di cominciare a parlare. Il primo è: mi permetta di salutare tutti gli amici gufi, mi piacerebbe che oggi si facessero sentire, soprattutto l'amico interista Roberto, eccetera eccetera. 800 24 00 24, se Roberto vuol chiamare siamo qui. Poi la Pinotti sta tremando, pronto il nuovo ministro della difesa Giorgio King Kong Chiellini Davide da Mantova. Oppure: oggi non vi ascolto, sono in lutto per la vittoria della Juventus. Non è vero, ci ascolti, perché vuoi sentire che cosa vi raccontiamo, che cosa ti raccontiamo, caro amico. Che non ti firmi, Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene, Filippo Maria Ricci, così abbiamo cominciato con questa coppia, la saga della due giorni di Champions, e così mettiamo il cappello, come si suol dire, anche perché rimane l'idea, l'aria di qualcosa di storico che sia capitato in due capitoli, che Pardo ha avuto come al solito la fortuna di raccontare. La rimonta al Paris Saint-Germain, che oggi somiglia tanto a un canto del cigno, e il cigno che muore contro la Juventus. Sbaglio? Ma è chiaro che questa squadra, in cui sta il Barcellona, ha qualcosa in meno rispetto al passato, però io credo che si debba partire dai grandi meriti della Juve, che onestamente ha giocato due partite perfette, diverse dal punto di vista tattico e uguali dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia, perché alla fine l'andata è una partita di intensità offensiva, di pressing, di occasioni prodotte e finalizzate. La partita di ritorno sarà una partita di grande attenzione difensiva, con qualche contropiede che poteva essere sfruttato meglio. Mi sembra che siano state due partite perfette. Il Barcellona non è più quello di qualche tempo fa, probabilmente sì, ha completamente sbagliato il mercato negli ultimi due anni dal punto di vista dei ricambi, soprattutto in mezzo al campo. È una squadra più debole rispetto a due anni fa, però la Juve è una squadra più forte, soprattutto più consapevole. No, non c'è dubbio. Filippo, in Spagna cosa si dice? Luis Enrique ha detto ai microfoni: il primo tempo di Torino non lo scorderò mai, nemmeno sulle spiagge di Gijón l'anno prossimo, aggiungo io. Buon pomeriggio, sì, però per me non è solo il primo tempo, per me questa dichiarazione è il grande limite, perché intanto non più di una settimana fa, venerdì scorso, era venuto in conferenza stampa a dirci che non aveva sbagliato nulla praticamente, sì, a Torino, e così già andiamo male. Poi l'altro ieri dice, figurati, ne facciamo sei, e no, non è vero. Nelle ultime quattro partite il Barcellona non ha fatto neanche un gol, non ha fatto gol al Malaga e due volte alla Juventus. E il primo tempo sì, l'ha sbagliato, ma poi non ha saputo correggere, perché comunque l'assenza per esempio di Jordi Alba in una squadra che ormai fa così fatica a giocare, a fare quel suo gioco, diciamo, offensivo, è un errore madornale. E ieri in parte, insomma, poi per quello che può fare, non è che, però sicuramente poteva incidere più di Mathieu, ma questo è un dettaglio. Certo. Luis Enrique è arrivato, si è portato da solo il capolinea, perché l'ha deciso lui, e per me lo sta facendo adesso, lo sta facendo anche male, nel senso che sono sbagliati quasi tutti gli interventi. Poi detto questo, a noi non ce ne frega niente, giusto, di che dobbiamo esaltare la grandissima prestazione della Juventus, perché comunque a me sai cosa ha fatto piacere, cosa dico, sì, io sono tanti anni che sono qua, che vedo un calcio offensivo e tutto, però vedere una squadra giocare così bene in difesa è un piacere degli occhi, insomma, ma non c'è dubbio, molto italiano, ma non c'è dubbio, ma insomma, chi apprezza lo sport sa benissimo che lo sport di squadra è fatto di due fasi, una offensiva e l'altra difensiva, così come secondo me era stato il vero capolavoro di Mourinho la partita giocata proprio a Barcellona, e ce lo ricordiamo tutti, ce lo ricordano tutti gli interisti con, sì. Ne parlavamo ieri sera con Pier, io però quella di ieri sera è una partita molto migliore, perché lì c'era stata una sofferenza vera, c'era un gol. Erano anche in 10, erano anche in 10. Esatto, erano in 10, però e soprattutto era il Barcellona praticamente il più forte della storia, anche quel Barcellona era superiore a questo, però lì era stata veramente vera sofferenza, vera. Ieri sera, ecco, io sono d'accordo con Allegri, quelle parole erano poche occasioni pulite, cioè non ha tirato tanto, ma ha tirato male, perché c'era davanti il muro, sì, e così, insomma, per cui veramente a me fa molto piacere, insomma, io da sempre lo dico, io tipo tutte le squadre italiane all'estero indistintamente, ed è veramente un piacere, quando per uno che sta fuori veramente, e mai chiesto della Spagna, chiudo brevemente, ormai come dicevamo anche ieri, la Spagna è, diciamo, per come la vedo io, in maniera piuttosto patetica, divisa, per cui a Barcellona soffrono e a Madrid godono, come Ricci. Questo è normale, capita anche in Italia, come sapete dai messaggi che avete. Dimmi, Pier. Un tema interessante è quello dell'emulazione, che non è che vuole essere un motivo per convincere i gufi a tifare Juve, però generalmente quando una squadra di un paese va bene sviluppa un effetto a catena. Questo vale anche nelle città, non è un caso che Roma, che è una città che ha vinto 5 scudetti in totale della sua storia, ne abbia vinti 2 consecutivi, perché c'è un effetto emulazione, perché c'è un effetto stimolo, e questo vale a livello anche di nazioni. Quindi, insomma, se il calcio italiano ottiene dei risultati, sicuramente, tanto è vero che negli anni 90 dominavamo noi, adesso dominano gli spagnoli, quindi è una buona notizia, ovviamente, e può diventare uno stimolo per gli altri. Mi sembra che sia stata la vera cosa sorprendente per me, rimane il fatto che Allegri, attraverso una squadra offensiva, attraverso los buenos, come dicono in Spagna, cioè quelli più bravi che giocano tutti insieme, abbia prodotto una performance difensiva così perfetta. Può sembrare un paradosso, ma in realtà non è un paradosso, perché a me viene in mente, per associazione di immagine, anche se sono due squadre profondamente differenti, il Milan ad albero di Natale di Carlo Ancelotti, perché si tratta di convincere quelli buoni, quelli bravi, a rinunciare ad un po' del loro talento per farsi un mazzo, bravo, per farsi un mazzo così. Vi faccio sentire un paio di voci di Luis Enrique e poi le faccio commentare a Filippo Maria Ricci, che saluterò. Questo è il calcio. Noi abbiamo pensato in fare una partita di questo livello, pensando a giocare velocissimo e facendo tanti tiri a porta come abbiamo fatto, ma mi è mancata un po' la lucidità negli ultimi metri, e credo che sia vista una partita bella con due grandi squadre giocando il nostro gioco d'attacco e alla fine complimenti alla Juve, e niente, noi a continuare lottando. C'è anche un Luis Enrique che dice attenti adesso alla Juventus per Cardiff. ha un grandissimo allenatore, ha dei grandi campioni come calciatori e ha fatto una bella gara e penso che hanno tutte le possibilità di vincere questa Champions, ma ci sono altre squadre che pensano lo stesso. Allora, la domanda che faccio a Filippo Maria Ricci prima di salutarlo, Pardo risponderà dopo il traffico, è: adesso è meglio prendersi gli underdog del... che è poi il domandone di oggi, domani scopriremo tutto, 800 24 00 24, in due gare è meglio prendersi gli underdog del Monaco, il bus a due piani davanti alla porta di Simeone o il talento Real Madrid? Guarda, io ti dico che ti posso rispondere in spagnolo, da igual, è uguale. È uguale. Comunque, questa Juventus è forte, e può battere chiunque. E sono tre squadre molto diverse. Appunto. Perché no? Per cui è difficile, si dovrà adattare a quello che trova. Perché, per esempio, viene da pensare, poi nell'Atletico è rognoso, è simile alla Juve. Però la Juve è superiore a questo Atletico, non dimentichiamocelo, la Juve ha giocatori molto migliori, chiaro, l'Atletico adesso c'è l'esperienza, la gioia di aver fatto due finali negli ultimi tre anni, però quest'anno ha mostrato dei limiti, adesso è cresciuta, per cui il Real Madrid, ha l'abitudine a questo tipo di gare, uno squadrone, però anche lì la ragione Ancelotti, segnano tanto ma i gol li prendono, la Juve glieli può fare, e il Monaco è questo così, sono le bollicine, no? Le champagne, però con poca esperienza. Io dico, per me non so dire cosa è meglio, io vedo la Juventus solida, e poi potrà uscire in semifinale sicuramente, però io la vedo assolutamente preparata per fare tutto quello che deve fare. Sì. Allora, grazie Phil, sentiamo presto naturalmente. Grazie a voi, ciao Filippo, ciao, Maria Ricci, ciao. Pierluigi, tu stai lì, sentiamo il traffico e poi torniamo. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Convocati. Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, è normale che non bisogna cercare di mantenere, ma cerchiamo di migliorare. E, ripeto, nel secondo tempo siamo finiti diverse volte nell'area avversaria con 5-6 giocatori senza chiudere l'azione, lì abbiamo preso un po' di ripartenze, ma tutti hanno fatto una grande partita, i centrali hanno fatto una partita straordinaria, quando è entrato Barzagli direi che la squadra poteva giocare anche per un giorno intero, era difficile che potevamo prendere gol in quel momento lì. A giocare anche un giorno intero. Allora, me l'aveva promesso di persona nei corridoi di Sky e Giancarlo Marocchi è un uomo di parola. Ti convoco subito dopo Barcellona Juventus, eccolo qui. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Pierluigi, mi devi una risposta, che poi la stessa domanda la giro a Marocchi. Meglio la tigna del Cholo Simeone, le bollicine del Real Madrid o il Monaco underdog? Guarda, io sono d'accordo con Lodorici, cioè che la Juve in ogni caso deve guardare con ottimismo, ovviamente con rispetto, ma con grande consapevolezza al sorteggio. Ti dico, io la mia idea è l'Atletico Madrid, lo so che l'Atletico Madrid fa giocare male, so benissimo che ovviamente non, tatticamente è una squadra che appunto può essere solida come la Juve, però appunto penso che la Juve abbia più qualità, per cui preferirei per la Juve evitarla in finale, nella partita secca, su due partite mi sembra più facile. Un Monaco è una grande incognita. Poi c'è una cosa che ha detto Buffon ieri, secondo me invece che va in senso completamente opposto, che è molto interessante, cioè che delle tre l'unica che comunque è abbastanza serena in campionato, nel senso che non ha scenari che possono cambiare molto, è l'Atletico Madrid, quindi sì, è quella che può fare più facilmente turnover, sì, rotazione. Sì. Dicendoti una cosa, eviterei il Real, perché il Real, l'abbiamo visto anche contro il Bayern, comunque ha forza, ha 360 gradi, diciamo, ha abitudine, ha tradizione, ha società, e quindi insomma il Real onestamente credo che la Juve potrebbe risparmiarselo. Giancarlo, come la vedi? Allora, io direi il Monaco assolutamente, perché delle altre tre mi sembra quella meno forte, ma credo che il Paris Saint-Germain non la pensi allo stesso modo, per esempio, cioè in campionato sta vincendo, quindi è una sorpresa ogni settimana, sembra una sorpresa ogni settimana a Monaco. Sono d'accordo con Pardo che Real è più forte di tutti, insomma 15 giocatori pazzeschi. Allora vale la pena porsi una domanda, visto che è l'anno in cui la Juve dovrà provare a vincere la sta benedetta Coppa, dopo troppi anni, il Real si batte meglio in una partita o in due? Secondo me in una. Però ieri sera è saltato fuori una cosa interessante a Sky, che Real va in finale e non le perde. Forse ha perso una volta, magari due, insomma, però ne ha vinte un'infinità. E vedendola in quella logica va bene anche il Real. Poi nel 96 vincemmo eliminando il Real nei quarti, sai, ci si attacca tutto quando poi si spinge sì. Una squadra a vincerla. Quindi, però dovendo scegliere, chiaramente sono per scegliere il Monaco. Senti, sei d'accordo con me sul fatto che la Juve non nemmeno esteticamente, però ricorda il Milan all'albero di Natale, ricordo Pirlo, Seedorf, Gattuso che era l'unico incontrista, Rui Costa, Kakà e davanti a tutti Shevchenko. Cioè vuol dire mettere in campo tutta la qualità che hai convincendo dei fuoriclasse. Seedorf era un fuoriclasse, di Pirlo non parliamo, ma è inutile. Convincendo 5 fuoriclasse a rinunciare a parte della loro grandezza. Il concetto è quello, io andrei addirittura a capello con Savicevic esterno destro del 4-4-2. Sì. Quindi proprio una roba ancora più di Mandzukic, perché Savicevic, insomma, più artista sicuramente di Mandzukic. Mandzukic da una parte, Quadrato dall'altra, che a un certo punto ieri sera erano a fianco di Dani Alves e Alexandro, quindi una linea senza vergogna di 6, che a questo punto... A sto punto siamo alla fine, conta il risultato, quindi vale la pena cercare di concentrarsi sulla condizione fisica, sui particolari, su non prendere botte in allenamento, e poi ci sono 3 partite, cioè per la Juve ormai ci sono 3 partite di Champions e una di finale di Coppa Italia, perché comunque la Roma pareggiando domenica scorsa gli ha dato una grossa mano. E comunque onestamente, ragazzi, il catenaccio e la sofferenza sono altre cose, eh. No, ma c'è anche chi mi scrive catenaccio di qua, catenaccio di là. Non è catenaccio, è organizzazione. Ma tu vinci 3-0 in casa, vinci 3-0 in casa col Barcellona, quindi hai 3 gol da difendere. Vai a Barcellona, cioè non vai, non voglio essere offensivo con nessuno stadietto di provincia, cioè vai in un posto dove possono succedere cose clamorose contro una squadra che se si accende è clamorosa. Non rischi mai. Che cosa hai rischiato? 2 palle gol, 3 palle gol in 90 minuti, cioè veramente il catenaccio è un'altra cosa e la sofferenza è un'altra cosa. Io aspettavo che la Juve passasse, però immaginavo che ci potessero essere delle situazioni di difficoltà, dei momenti delicati della partita, non ci sono stati, quindi è stato un pericolo. Senti, Pardo, dalla televisione, perfetti, oltre ai difensori, ma qui scopriamo l'acqua calda, poi scegliete voi tra Bonucci e Chiellini, dalla televisione mi sono piaciuti da morire Khedira, che purtroppo non ci sarà per squalifica al prossimo giro, e Pjanic. Dal campo, dalla tribuna stampa, dalla gabina di commento, come l'hai vista? No, ma Khedira molto bene, un paio di volte gli è mancata lucidità, ma proprio perché ha speso molto lucidità nella ripartenza, però anche quella mezza occasione che ha avuto nel secondo tempo con l'uscita di Ter Stegen, ma la difesa, voto altissimo alla difesa, ma io direi voto altissimo alla fase difensiva, perché poi la difesa fa quel tipo di lavoro, perché ci sono Quadrato e Mandžukić che si fanno un mazzo il cosiddetto, così. No? Cioè è quella roba lì. Ma devo dire che Allegri in questo appunto c'era l'esempio di Savicevic, c'è l'esempio della decima del Real Madrid con Di Maria spostato al centrocampo per poter consentire di giocare col tridente e aumentare il tasso tecnico. Cioè, questa mi sembra la cosa più interessante, cioè gli allenatori che vincono in Europa sono quelli che riescono appunto a rinunciare in nome dell'equilibrio alla minor quantità possibile di talento. E la Juve ci sta riuscendo da questo punto di vista, quindi mi sembra tutto perfetto. Sì, il problema è convincere i giocatori. Gli allenatori grandi sono quelli che ci riescono. Ad esempio, e torniamo a un altro caso del passato, lo fece Mourinho con Eto'o in quella stagione in cui giocò terzino. Bonetto che diceva: vabbè, non devo stavolta suono il tamburo, non la tromba. Ti ricordi, no, Giancarlo? Sì, poi dopo, chiaramente, appena conquistata la Coppa, andò in sede a dire: bravo, guardate, bravo, che io, bravo, che io faccio centravanti. Ci ho giocato un anno, poi scordatevelo, l'anno prossimo io gioco dentro l'area di rigore. Però è giusto così, dai. Quando, infatti, adesso è chiaro che parlare di bello, brutto, di estetica è molto interessante, a me piace un sacco, ma bisogna dissociarlo proprio dalla questione Juve. Cioè, adesso siamo alla fine, cioè lì, qui conta vincere veramente, e quindi adesso Allegri è giustamente andato in quella direzione, quindi squadra compatta, che è diventata squadra vincente per le qualità di tutti i giocatori. Cioè, quindi lasciamola, cioè proprio facciamo certi ragionamenti, ma adesso con la Juve ci si concentra solo sul risultato. Chiaro. Conta molto l'autorevolezza dell'allenatore. Io ho avuto la fortuna quell'anno di scrivere con Eto'o l'autobiografia, e la cosa che mi ricordo molto, molto precisa, molto netta, era che anche in privato, quando, volendo, insomma, Eto'o poteva lasciarsi andare e rivelare qualche malumore, invece lui in realtà era pazzo di Mourinho, era pazzo delle polemiche di Mourinho. Mi diceva che tutto il mondo era con l'Inter, cioè c'era stata la capacità di questo allenatore, comunque straordinario, che è Mourinho, di inculcare nei giocatori dei valori e una motivazione, un'unità di intenti davvero incredibile, che poi è quella che fa la differenza, perché a questi livelli qui sì, sono quegli allenatori che creano, no? Quello spirito di setta, come diceva mio amico Andrea Zorzi a proposito di Velasco, no? Il settarismo, cioè tu sei disposto a seguirli fino in cima all'Everest, e, no, sono quegli allenatori lì. Anche tu ne hai trovato qualcuno sulla strada, Giancarlo? Sì, però veramente fai fatica a seguirli per tanti anni. Bravo, cioè, bravissimo, perfetto. Infatti la scia fisiologica è due stagioni, secondo me. Esatto. Ormai Mourinho se l'ha insegnato, che è proprio lui è il suo marchio di fabbrica, anche se non ce n'è bisogno, comunque a quello. Perché ci sono allenatori, cioè, vedi Lippi, ecco, io ho avuto Lippi che a un certo punto ci saremmo buttati nel fuoco per lui, ma lui usava questo metodo quando ce n'era bisogno. Mourinho magari lo fa sempre, quindi due, massimo tre anni, e poi i giocatori hanno bisogno di respirare, ecco. Stai con i giocatori, gli esseri umani sono poligami, e non mi riferisco ovviamente a discorsi sentimentali, mi riferisco al fatto che sono curiosi, e i calciatori non fanno eccezione. Quindi quando tu incontri allenatori interessanti che ti danno stimoli, che arrivano, c'è un impatto, siamo bravi, c'è un impatto di motivazione, e poi magari con il passare del tempo quello stesso livello di, soprattutto se hai vinto molto, quello stesso livello di concentrazione lo riesci ad avere. No, ma riesci a tenerlo, ma lo stesso discorso vale anche per Conte. L'ultima cosa che volevo chiedere a Giancarlo Marocchi: il Barcellona a questo punto finisce sullo scaffale bello, è alto delle grandi squadre epocali, insieme all'Ajax di Cruyff, al Milan degli olandesi e di Sacchi, che peraltro è stato critico, poi ne parliamo, anche ieri nei confronti della Juve. Finisce lì, Giancarlo? Sì, ci può essere un colpo di coda. Adesso diventa interessante capire se i dirigenti, insieme a Messi, perché merita Messi tutta la considerazione, cioè uno che ti ha fatto vincere, ti ha fatto vedere calcio sublime, giocate sublime. Cioè adesso bisogna capire da lui se ha bisogno di stimoli di un'altra squadra, o è disposto a rimettersi in gioco con un colpo di coda, e questa squadra con poco e niente la rivince la Champions. Però è chiaro che siamo ai titoli di coda. Grazie Giancarlo. Grazie, ciao Pier, ciao a tutti. Ciao. Pier, sei lì, no? Sei sull'aereo, no? Ho un aereo, ma ancora non imbarca, qua sono lentissimi, quindi sfruttiamo la lentezza catalana, sentiamo il traffico, ci troviamo subito dopo. 800, sì, il traffico, ero col traffico aereo, De Luca, scusami. Sentiamo la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24. Vi ricordo che dopo le 15 avremo anche l'ex CT Cesare Prandelli per leggere il finale di questa Europa. Cesare Prandelli, che ho pensato molto molto intensamente, come fa quella canzone, l'altra sera quando ho visto il Bayern Monaco lamentarsi a sangue, giustamente, per l'arbitraggio. Ma non c'è Robe però quella notte. Tutti convocati. I just can't get love. I just can't get love. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Io direi che sotto questo aspetto agonistico, fisico, le capacità interpretative e difensive, la Juventus è stata di altissimo livello. Andiamo la, subito. La qualità del gioco invece è stata non come io speravo, non come i primi 10 minuti. Per esempio, nei primi 10 minuti la Juventus ha giocato, dopo sempre meno, perché il possesso palla è modesto anche perché quando uno ha la palla c'è poco movimento, poca collaborazione, e quindi però è una squadra tanto di cappello. Beh, per fortuna si è tolto il cappello Sacchi dopo non essersi lasciato mancare la solida critica nei confronti della Juventus. Che cos'altro doveva fare la Juve in vantaggio di 3 gol ieri sera al Camp Nou di Barcellona? Ascoltatori, naturalmente, 800 24 00 24 è il numero verde. Mimmo dalla provincia di Caserta ad aprire le danze. Sì, buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a voi. Buongiorno. C'è ancora Pardo? Pardo si sta imbarcando, lo stiamo chiamando, insomma, non vorremmo bloccare il traffico aereo. Io sono juventino, non parte la contentezza per ieri, però volevo solo dire com'è difficile essere juventino qua in Campania, soprattutto in Campania, dove cioè, non è riconosciuta mai una buona cosa da parte della Juve. Vabbè, questo non riesco a capirlo. Che possano dire i tifosi va benissimo, ma se tu dovessi sentire delle trasmissioni dove ci sono dei giornalisti, almeno credo siano giornalisti con tesserino, è qualcosa di assurdo. Non si rendono conto che fanno male proprio alla loro terra, cioè è possibile che esistano questi personaggi? Tanto riconosce qualche volta, è stato in trasmissione qua. Sì, ma questo non lo so, ma non, insomma, il gufismo esiste ovunque, non ci trovo nulla di male in questo, poi che siano giornalisti, tifosi, che poi le due cose spesso coincidono, poco importa, insomma. Ci sono giorni come questo in cui ci si possono prendere delle soddisfazioni. Massimo a Bologna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire, lasciamo stare Sacchi. Volevo dire che Allegri... Perché lasciamolo stare? Perché ha sempre quella spocchia che un po', insomma, con la sua squadra forse avrei vinto anch'io. Non voglio adesso. No, però, attenzione, sì, dal punto di vista il fatto dell'avrei vinto anch'io è qualcosa che lascia il tempo che trova. Sì, no. Il problema è come ha vinto, perché quel Milan è diventato epocale, proprio perché ha cambiato un'epoca, ha cambiato una mentalità. Ne parlavamo l'altro giorno, non ricordo con chi o con quale ospite, perché ho la memoria di un pesce. Però quel Milan rientra tra le squadre che stanno sul piano alto sullo scaffale alto, proprio perché andavamo in trasferta a Lugano e avevamo paura. Da quel Milan in poi abbiamo smesso di avere paura. In questo il Milan di Sacchi è stato una squadra epocale. Poi sul fatto che lui sia spesso ipercritico e spesso nei confronti di Allegri, questo è un dato di fatto. È tornato Pardo, sperando di non bloccare tutto, sì, il traffico aereo cieli di Barcellona. Ma sì, io penso, ieri ho partecipato ed ero chiaramente in disaccordo con Sacchi, nel senso che secondo me la Juve ieri ha fatto una grande partita, ma io credo che lui sia essenzialmente più, cioè, un allenatore è un filosofo, c'è, cioè, una filosofia di calcio. È chiaro che a lui piace di più la Juve dell'andata rispetto alla Juve del ritorno. Credo che non ci siano dubbi su questo. Beh, anche a me. Se volete lo convochiamo. No. Però ecco, credo che sia un discorso filosofico. È ovvio che ha anche detto che la Juve secondo lui può vincere la Champions League, anzi che è la favorita, sottolineando i valori anche morali di questa squadra, quindi non è che è una critica nei confronti della Juve in quanto Juve. È chiaro che stiamo parlando di un maestro di questo gioco, di un filosofo del calcio che ama un calcio offensivo, e quindi la partita di ieri probabilmente l'ha divertito meno rispetto alla partita d'andata. Poi io trovo... Beh, anche a me ha divertito meno rispetto alla partita d'andata, però devi metterle tutte e due insieme, no? Devi metterle tutte e due insieme. Ieri ho fatto la telecronaca che quindi mi sono divertito di più. A parte le battute, no, sicuramente la partita sarà più divertente, su questo non ci sono dubbi, però ci sono situazioni, secondo me, la cosa da sottolineare è che la Juve è andata a giocare a Barcellona contro una squadra che ha fatto 21 gol in 4 partite di Champions in casa, contro una squadra che comunque ha un potenziale offensivo pazzesco con 92 gol in 3 tra Messi, Suarez e Neymar, e alla fine ha concesso 3 occasioni, non ha mai rischiato. Cioè, questo secondo me, ripeto, è strapositivo, veramente strapositivo. Sì. Poi che nella testa di Spezia del calcio, come Enrico Sacchi, sia l'idea di un calcio sempre di dominio dell'avversario, questo è evidente. Però insomma, nella storia del calcio due squadre italiane hanno vinto a Barcellona, il Milan nel 2000 e la Juve nel 2003. Certo. Non è che è la cosa più semplice del mondo. Ieri sera a cena con Ricci, lui per esempio mi diceva che secondo lui nel finale la Juve ha perso l'occasione per poter addirittura vincere la partita. È vero, è vero, però è anche vero che secondo me il pareggio di ieri è una vittoria. Sì, non cambia molto. Barcellona veniva, no, ma al di là dell'aspetto pragmatico, anche dal punto di vista proprio simbolico, il Barcellona che non segna in casa e il Barcellona che non vince, erano 15 partite consecutive che vinceva in Champions League. Insomma, è una vittoria. Ragazzi, la difesa della Juve ha preso 2 gol da settembre a oggi in Champions League. Quindi... un gol ogni 4 ore e mezzo. Esattamente. Marino, Milano, buongiorno. Se prende un gol, il prossimo è stasera intorno alle 10 di sera. Continua a giocare, prende un gol intorno alle 10 di sera. Marino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sacchi e Allegri. Io sono un grande estimatore di Allegri. Vedo in Sacchi un po' di rancore, un po' rancoroso, comunque adesso al di là delle opinioni. Sacchi trovo che sia stato un leader che ha saputo imporre la sua leadership. Sì. Allegri invece ha un grande pregio che Sacchi non aveva, quello di condividere la leadership. La leadership deve essere condivisa. Lui sa condividerla con personaggi quali Bonucci, quali Chiellini, quali i senatori. Buffon, ci metto anche Mandzukic che è un guru in questa Juventus. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Il fatto che Allegri sia riuscito a plagiare le menti di un Chiellini e un Bonucci che sono irrazionali. No. Allora, adesso qui stiamo andando su altri... Acceriamo. Plagiare le menti mi sembra eccessivo. Condividere la leadership invece è un'immagine che mi piace già di più, ed è per questo è una leadership morbida, anche se poi è una leadership a Lancelotti, quella bravo, di bravo, poi Pierluigi, ci ricordiamo di Porto, no? A Porto, oddio, che succederà adesso? Bonucci in punizione. Bonucci, attraverso quell'esempio che Allegri gli ha dato, anche perché poi la partita andrà bene, la Juve ha vinto, tutto a posto, eccetera. Però ha dato un esempio. No, ma hai detto una cosa perfetta, ragazzi, ma non è che anche Carlo Ancelotti, che conosci meglio di me, certe volte non abbia alzato la voce, certo, o non abbia messo qualcuno in castigo, perché non, leadership morbida non significa concedere tutto, giusto? Assolutamente. Ma guarda, il tema è interessantissimo. Non a caso le aziende fanno convention, focus group, dibattiti, incentive con i propri dipendenti proprio su questo tema, e spesso utilizzano gli allenatori non solo del calcio ma anche degli altri sport come speaker, perché la capacità di gestire un gruppo ovviamente si collega alla capacità di gestire un gruppo di lavoro di una grande azienda, di qualsiasi settore, di una redazione, di qualsiasi settore della vita umana. Ovviamente esistono vari livelli di leadership, vari stili di leadership. Allegri mi sembra uno, anche rispetto a Conte, sicuramente più un po' più morbido, un po' più collaborativo, un po' più costruito sulle labbra, ma l'importante è il risultato, l'importante è quello che tu riesci a generare. Poi se generi tutto questo attraverso lo scontro, la provocazione, la durezza, oppure attraverso è stato perfetto prima Marocchi, quando ha detto ci sono degli allenatori per i quali ti butti nel fuoco, però puoi farlo per un paio di stagioni, non di più. In questo ambito metto Sacchi stesso, metto Mourinho, metto lo stesso Conte, cioè allenatori che, per i quali sei disposto a tutto, e parlavi prima tu giustamente di Eto'o, ma sei disposto a tutto per un periodo e per un tempo limitato. Pierluigi, ho il traffico, dimmi tu quando devi salire sull'aereo. Qua, non si muove nulla. Comunque fammi sapere tu, perché ovviamente io non, qua, sì. non abbiamo... si muove nulla dal punto di vista aeronautico. Va bene, perfetto, allora traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Ingannando l'attesa per il volo, sempre Pierluigi Pardo collegato con noi da Barcellona, un sacco di ascoltatori in linea, 800 24 00 24. Prima di tornare a loro, approfitto invece di un altro confronto tra me telespettatore e Pardo spettatore, raccontante dal Camp Nou della partita di ieri sera. Higuain non ancora all'altezza dell'Higuain che conosciamo, e lo stiamo aspettando per un sigillo importante, no? In Champions League credo che la Juve e gli juventini lo stiano aspettando. Dybala, che ancora è campionissimo, ma ancora Messi non è. Però non è la partita quella di ieri, onestamente, per poter giudicare gli attaccanti. Cioè, l'errore principale di Higuain, secondo me, non è stato su quella palla gol all'inizio, dopo uno scambio involontario con Busquets. Secondo me quello che ha sbagliato un po' Higuain ieri è stato qualche appoggio, qualche situazione in cui faceva la sponda perché allungava il pallone, non era forse la cattiveria necessaria. Poi per esempio invece spara quella palla gol nella parte finale del primo tempo, dove è stato molto bravo a tagliare, a tirare verso la porta. A me non è dispiaciuto, certo un po' di sensazione che Higuain certe partite di Champions, che sappiamo per lui è un tabù, probabilmente le sente ancora un po', ce l'ho, nel senso che poi alla fine, se guardiamo i numeri, Higuain ha fatto 6 gol nelle ultime 5 partite con 3 doppiette. Certo. Ma le ha fatte contro il Chievo, contro il Pescara, certo. E contro un'altra che non mi ricordo, ma sempre in campionato, e invece nelle due partite di Champions ha faticato un po', però insomma non mi sembra un problema, francamente, e a me non è dispiaciuto, cioè la mole di lavoro che ha fatto è stata buona. Ho sbagliato qualche appoggio, un paio di situazioni potrebbero essere anche pericolose, insomma, però ripeto, non era la partita secondo me per giudicare gli attaccanti. Sì, nemmeno Dybala che Messi è un videogioco, Dybala ancora non ha raggiunto quei livelli lì. Sono d'accordo con chi dice, Dybala può essere al momento, non so, un Neymar, ma quello che può fare Messi da solo, inventandosi il gol, costruendosi da solo, creandosi da solo il gol, ancora Dybala non è in grado di farlo. Ma il tempo gioca e il talento sono dalla sua parte, però. Davide da Mantova. Buongiorno, grazie per la convocazione. Buongiorno, dica. Io ho un piccolo sassolino da farmi dalle scarpe, nel senso che dopo la roboante vittoria del Barcellona contro il Paris Saint-Germain, anche se sappiamo bene com'è stata, tutti che glorificano il Barcellona, la squadra più forte del mondo, e ancora fa paura. Poi la battiamo noi 3-0, ma sono ormai scarsi, ormai sono finiti. Cioè, io trovo un po' evidente questo discorso nei confronti della Juventus, che ormai ha fatto due partite assurde. Sì, sono d'accordo sul fatto che ha fatto due partite assurde. Dopo aver visto quella remontata spaventosa che Pardo ha raccontato, ricordiamo. Insomma, ci siamo tutti lasciati un po' andare, e il Barcellona a questo punto, dopo aver fatto un'impresa simile, diventa d'obbligo la favorita della Champions League. Invece era giusto che decantasse, no? quella sensazione. Sì, no, ma io sono d'accordo, dico però che non c'è niente di personale contro la Juve. Questo dal punto di vista mediatico non è che c'è un problema. Ma no, ma stiamo scherzando. Quando c'è fra due squadre una vittoria netta di una di un coppia all'altra, inevitabilmente si dice però l'altra non è più la stessa. Io mi ricordo Barcellona-Bayern dell'anno di Villanova, che finì 7-0 per il Bayern, 4-0 andare, 3-0 al ritorno. Insomma, i commenti che ho preso di Barcellona anche lì erano: è finita un'epoca, ma non per svilire il Bayern, perché quando la squadra vince in maniera netta, e la Juve ha passato questo turno in maniera netta, proprio autorevole e autoritaria, è chiaro che poi alla fine, come ultima pagina del giornale da sfogliare, c'è anche il fatto che ci si possa dire, ma il Barça è la fine di un'epoca, è in calo, secondo me è un po' in calo, ma questo ma no, ma secondo me vale il discorso, cioè, non rimango, toglie nulla. No, Pier, rimango convinto del discorso che ho fatto in apertura, cioè è stato un qualcosa di storico che è capitato, che è successo, si è svolto in due capitoli differenti, no? Una rimonta praticamente impossibile con una partita praticamente impossibile. E poi è arrivata la Juventus. E poi è arrivata la Juventus e ha tagliato la testa al drago. A me piace immaginarla così. Poi, magari l'anno prossimo, ha ragione Marocchi, Messi si convince a rimanere lì e a ripartire, a ricominciare. Un paio di acquisti azzeccati e il Barça è ancora la squadra da battere. Non è una brutta base, però devono fare delle cose, perché comunque hanno sbagliato, tante robe le hanno sbagliate, Andre Gomez non è un acquisto completamente sbagliato, una squadra che non ha tanti cambi e che alla fine, al di là delle tre eccellenze lì davanti, poi non è che abbia più tantissimissimo, con Iniesta che inevitabilmente è invecchia, con Busquets, Eden, insomma, Piqué sicuramente è un punto al quale ripartire, però ecco, non resta molto. C'è l'impressione, vedere Dani Alves, che il giocatore di ruolo è mandato via, Dani Alves e Sergio Roberto ci sono ad oggi ancora, sì, categorie in Dani Alves c'era una scintilla dentro che abbiamo visto ieri sera, guarda, se tu guardi i numeri, si vedeva negli occhi, faccio spesso i numeri, Dani Alves di Cristiano ha giocato tantissimo in campionato, poi nella prima parte della stagione anche fuori dalla lista, e Dani Alves c'è più, gioca sempre, perché questo mi ricorda una frase del ministro Ancelotti una sera, proprio durante un periodo della Champions del 2007, ci sono dei giocatori che sono perfetti per le partite speciali, non c'è niente da fare, ci sono perché i teatri non sono tutti uguali, perché le partite non sono tutti uguali, e quindi uno che in carriera ha vinto 32 trofei, ne ha vinti 23 col Barcellona, che ha quell'esperienza lì, poi magari sulle 38 partite del campionato te lo puoi perdere, magari qualche volta è un po' stanco, però poi quando c'è la grande serata si illumina. Io penso per esempio a Clarence Seedorf, che spesso al Milan si beccava qualche fischio, qualche partita banale di campionato, ma che poi quando arrivavano le grandi partite tirava fuori il meglio. Ed è un po' quel discorso lì, giocatori speciali per partite speciali. Bruno, buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. A me piaceva tornare un attimo su Sacchi, ma solo per contestualizzare due cose. Secondo me, voglio dire, Sacchi grandissimo, però in Italia non è che poi ha vinto chissà quanto. Io Allegri lo trovo veramente un grande allenatore, ha cambiato 9 giocatori rispetto alla finale di 2 anni fa e si è presentato così al Camp Nou, chapeau. Non stiamo facendo un confronto tra Sacchi ed Allegri, anche perché la carriera di Sacchi è stata non è durata tantissimo, mettiamola così. Non dimentichiamo nemmeno che è uno dei pochi commissari tecnici della storia ad aver portato il calcio italiano nel modo che volete, ma in una finale di Coppa del Mondo. Sacchi è un innovatore nel calcio, adesso voglio dire, io ripeto, non sono d'accordo con la sua analisi di ieri, nel senso che mi è stata un po' poco entusiasta rispetto a quello che di meraviglioso la Juve ha fatto, secondo me, anche ieri sera. Detto questo, Sacchi è uno di quelli che ha cambiato il gioco del calcio, cioè, e infatti i meriti e la carriera di Sacchi non la misuri tanto in medaglie, in trofei che pure ha vinto, ma la misuri perché è stato uno di quelli che ha cambiato il gioco, come Cruyff ha cambiato il gioco a Barcellona, quindi poi sono arrivati altri, hanno vinto magari anche più di lui, però questa capacità di inventare cose nuove è come quando uno inventa la ruota, è come quando uno inventa l'aereo che però è in ritardo, Sacchi ha inventato la ruota. Per la cronaca, l'aereo Barcellona-Milano è in ritardo. È un Madrid, Milano, perché l'abbiamo scelto. È un Madrid un po' complicata. Sì. Hai fatto il giro largo. Allora, intanto facciamo in tempo a sentire anche Gerardo, poi ti lascio andare. Gerardo da Torino, buongiorno. Buongiorno, sono Gerardo da Ivrea. Da Ivrea, per la precisione. Sì. Ivrea. Non è un... Due domande. Così semplicissima, però da lei voglio una motivazione valida e sincera. Perché non vai mai a Titicaca con Gerardo? A lui glielo chiedi. Perché a me lo chiedi? Ti ho visto sul, ti ho visto sul 29 su Gazzetta TV tempo fa in TV, ho detto quindi è uno che va in TV, ma perché non da più tardo? Perché, perché è tardi, perché è troppo, io sono è troppo bello e, e a questo punto la differenza fra i due verrebbe fuori in maniera ma sei finita. Adesso portiamo, facciamo una mozione, bring Genta Tiki-Taka, lo portiamo. Ma è tardi, è tardi, io con loro sono. A quell'ora ho sonno, dimmi. Carlo, sei ancora, adesso prima del tuo, vabbè, sei ancora convinto che questo Barcellona sia più forte di quello del 2010? Oddio, di quello no, allora io dico che il Barcellona che a me è piaciuto di più è stato quello che ha fatto il triplete con Luis Enrique, cioè per i miei gusti personali, poi ognuno ha i suoi. No, però il Barcellona del 2010 era fortissimo, ragazzi. Ma non sto dicendo che non era forte. Era più forte di questo, era più forte di questo. Però come diceva giustamente Ricci prima, non c'è partita fra la partita di ieri e quella fra Barcellona e Inter, anche perché ci fu l'espulsione che cambiò tutto ovviamente, perché il vantaggio era 3-1, cioè quella lì fu sofferenza piena. Ti ieri piace, Pierluigi, ti piace di più Giselle Bündchen o Naomi Campbell? Cioè, alla fine, Giselle Bündchen. Ma lo so, ma è una questione di gusti. Lo sapevo. Sai di me, Giselle? Sì, so tutto di te, Giselle. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Magari ciao. C'è Carter. Saluto mia moglie Simona. Ciao, ci sentiamo dopo GR con Cesare Prandelli. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile ogni mattina nel GR delle 7. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare o vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Adesso chi vorresti incontrare tra Monaco, Real Madrid e Atletico? Ma io credo che la domanda va fatta alle tre che non ci vogliono incontrare. Penso che adesso la Juventus mette paura, quindi una vale l'altra. Se saranno le due di Madrid ce la giocheremo, così come con il Monaco, che sulla carta è quella più facile, ma abbiamo visto che ha dimostrato di essere una squadra temibile, forte, con qualità, con corsa. Saranno due grandi semifinali, ma l'obiettivo nostro è quello di arrivare a giocarci la finale a Cardiff. Quando arrivi in semifinale non hai veramente preferenze. E l'unica distinzione che si può fare fra le tre squadre è che l'Atletico Madrid è la squadra che ha una posizione più delineata e definita di classifica, e quindi nelle due sfide secondo me può anche adoperare un turnover che potrebbe aiutarla. Le altre due invece stanno lottando per il campionato e probabilmente questi tipi di calcoli non li possono fare. Quando abbiamo guardato il sorteggio tutti insieme, volevamo tutti tranne il Barcellona e abbiamo beccato il Barcellona. Oggi abbiamo passato il turno e niente, vediamo cosa dirà il sorteggio, non abbiamo una favorita. Adesso dovresti andare a Madrid con una delle due o a Monte Carlo? No, penso che quella che deciderà Dio sarà quella giusta. Quadrado si affida alle sfere alte, mentre non è vero che quando hanno guardato il sorteggio nessuno voleva Barcellona, perché Bonucci, che è stato il primo che avete sentito parlare, il Barcellona lo voleva e stavolta ha detto: sotto a chi tocca, noi vogliamo andare a Cardiff, gli altri sono Buffone e Dybala. Io saluto Cesare Prandelli. Buongiorno mister, ciao, grazie. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Senti, posso dire prima una cosa, prima di Juventus, queste cose qui. Ti ho pensato molto molto intensamente l'altro ieri sera, pur con il dispiacere nel cuore per Carletto Ancelotti, perché mi è venuto in mente troppo quel Bayern-Fiorentina ottavi esatto. di finale di Coppa dei Campioni di Champions League. Era ancora più clamoroso, Uno dei gol in fuorigioco più clamorosi della storia del calcio, dopo il quale Rummenig disse: i gol in fuorigioco capitano. Stavolta ha detto cose diverse. Esatto. Mi sono un po' rivisto, nel senso che quando ti capitano queste cose non hai nessun tipo di argomento. Sei fragile. In quel momento anche Carlo, ovviamente, per la prima volta mi sembra che abbia dichiarato ci vuole la moviola in campo. Sì, per la prima volta ha detto questo, mentre un tuo ex giocatore Marco Donadella ha detto giustizia è fatta. Così ha scritto su Instagram. Ah, vabbè, quello mai. Ascoltami, invece, in linea di massima, da allenatore, abbiamo sentito le opinioni. Qual è meglio affrontare, onestamente, in semifinale, tenuto conto delle caratteristiche delle varie squadre fra le tre che rimangono? Ma forse io eviterei, così tanto un gioco, eviterei il Monaco, che forse è meglio in questo momento non affrontarlo, perché psicologicamente magari uno l'affronta in maniera diversa rispetto a Barcellona, Real Madrid e Atletico. Invece è una squadra molto ma molto interessante, una squadra che ha qualità, tecnica, gamba, aggressività. Io andrei ancora in Spagna, ecco. Andresti ancora in Spagna? Ma io andrei ancora in Spagna. Ma più a Madrid, dove puoi trovare da un lato un sacco di stelle e dall'altro il pullman a due piani parcheggiato sulla linea? Ma forse, se ho sentito Buffon, diceva che probabilmente l'Atletico penserà esclusivamente alla semifinale, quindi preparerà le partite in maniera meticolosa, ma soprattutto farà un turnover massiccio. Il Real non se lo può permettere, perché sta lottando per la Liga, e quindi forse andrei sul Real. Sì, anche la Juventus può permettersi la stessa cosa, ma per motivi diversi. Diversi, assolutamente. Esatto. Senti, ennesima incoronazione di Allegri, che ha insegnato il sacrificio a chi ha sempre vissuto da stella. È un discorso che facevamo prima anche con Giancarlo Marocchi, oltre che con Pardo. Insomma, è difficile insegnare il sacrificio alle stelle. Le Champions si vincono, no? Hai ragione, è molto molto difficile. Diventa meno difficile in un ambiente come quello di Torino, dove la società è presente, dove i dirigenti comunque dal primo giorno ti fanno capire determinate cose. Quindi, però, tanto di cappello ad Allegri, perché mettere in campo una squadra che sulla carta era molto molto offensiva, dando comunque degli equilibri, non è facile, chiedendo quei giocatori un grande sacrificio. Io ho visto, se permetti, una fine forse di un ciclo, di un calcio molto divertente, un calcio meraviglioso, fatto di tecnica, di triangolazioni, di possesso palla, contro una squadra moderna, una squadra che mette in campo non solo carattere, cuore e determinazione, ma anche idee tattiche, forza, resistenza. Quindi mi sembra una squadra molto molto moderna, non ha diciamo tra virgolette difetti, perché la Juve quando può giocare gioca a calcio, quando deve lottare lotta, quando deve contrastare contrasta, è resistente, ha personalità, secondo me è la nuova squadra che a livello europeo probabilmente per anni sarà protagonista. Io ho visto questo, ho visto proprio la fine di un ciclo di una grandissima squadra. Guarda, quello che è la stessa cosa che ho detto io prima, Pardo, cioè la mia idea è stata di qualcosa di storico che è capitato in due capitoli. La rimonta con il Paris Saint-Germain, quando tutti abbiamo detto il solito Barcellona a questo punto è favorito per la Coppa, e poi arriva il cavaliere con la spada che taglia la testa al drago, esatto, e finisce il ciclo. Sono perfettamente d'accordo, non t'avevo sentito, ma sono contento di aver condiviso. Sì, ma è un pensiero comune, condiviso anche da Marocchi prima. È stato un Barcellona storico che ha segnato un'epoca, perché su quello scaffale lì, anche se certamente l'Ajax di Cruyff, un po' contestato, il Milan di Sacchi, ma perché ha cambiato la mentalità al di là di quello che ha vinto. Certo. E poi appunto questo Barcellona. Poi mi criticano anche perché io il mio Barcellona preferito è stato quello del triplete di Guardiola, di Luis Enrique. Perché mi divertiva vederli andare in profondità. Io sono convinto anche di un'altra cosa. Adesso diciamo, il calcio italiano finalmente è tornato in semifinale di Champions League, c'è tornata la Juventus. Io credo che queste grandi squadre non rappresentino tanto i rispettivi movimenti, rappresentino molto se stesse. Sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché mi sembra 2 anni fa la finale di Champions, il Barcellona forse ha cambiato 2 giocatori e la Juve ne ha cambiati 8, ma sono tutti stranieri. Però chi se ne frega, assolutamente. Chi se ne frega, esatto, italiano. Mi spiace un po' probabilmente per, anzi, mi spiace per la nazionale, per il calcio italiano, perché ovviamente se molti giocatori avessero la possibilità di arrivare in semifinale o finale di Champions acquisirebbero molta esperienza e molte capacità comunque di affrontare le partite internazionali, ma come dicevi giustamente te, ognuno fa e progetta la propria strada. La Juve ha progettato la strada per arrivare dove sta arrivando e quindi complimenti a loro. Ti sembra una squadra da triplete? Mi sembra una squadra completa. Il discorso volevo terminare col Barcellona, sì. Al di là del, diciamo, la caduta del Barcellona, la caduta degli dèi, ma si vede il nuovo che avanza, cioè la Juve che avanza, perché il Barcellona, se vogliamo, ieri sera abbiamo capito che chiudendo tutti gli spazi, ovviamente ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole anche un po' di buona sorte, però quando vedi, non so, che il Barcellona manda Piqué a fare il centro avanti per tutto il secondo tempo, sì. Io ho detto, ma butteranno qualche palla alta. No, hanno continuato a giocare allo stesso modo, rischiando sistematicamente ogni azione di prendere gol, quindi sono stati anche in confusione a livello tattico, perché conoscono solo un tipo di calcio. Esatto. Conoscono solo un tipo di calcio fatto in maniera meravigliosa quando gli interpreti hanno fisicità, quando hanno lucidità e quando probabilmente avevano anche un po' di pancia non piena, ecco. Certamente, no, sai che c'è una cosa che mi fa arrabbiare quando cominciano a parlarmi di, beh, la Juventus è andata lì, ha fatto catenaccio. Chi dice questo, secondo me, non capisce nulla. Non capisce nulla di calcio. Non capisce nulla perché è andata lì a fare una, cioè gli sport di squadra sono fatti di 2 fasi, una offensiva e l'altra difensiva. Esatto. Vedere una squadra che si muove anche in quella maniera quando non è in possesso di palla, dal mio punto di vista è uno spettacolo. Poi è uno spettacolo. Il primo tempo di ieri, poche partite e poche squadre riescono a interpretare un calcio come ha fatto la Juventus, soprattutto su un campo difficile. Quindi sì, sono d'accordo, Grazie Cesare, è sempre grazie un piacere, è sempre grazie un piacere. Cesare me. Prandelli, un abbraccio a tutti. Un abbraccio, grazie. Grazie davvero. 800 24 00 24 è il numero verde per chiamare e sfogare la vostra gioia o la vostra rabbia, se siete dei gufi. Ma non ho ancora sentito nemmeno uno. Chissà se lo è per Luigi della provincia di Roma. Sì, grazie della convocazione. Grazie. No, non sono tra i gufi. E comunque io, qualsiasi squadra oggi italiana che gioca fuori, la tifo a prescindere che sia da me tifata in Italia oppure no. Sì. Io volevo un po' andare fuori d'accordo, volevo sapere, ma secondo voi, visto quei premi che prenderà con la Champions eccetera eccetera, ma che mercato andrà a fare poi alla Juventus con questa Juventus così a mio avviso perfettamente equilibrata? E soprattutto, ma se arrivasse una offerta per Dybala da 150 milioni, come penso che possa reputarsi possibile vista la valutazione di Pogba l'anno scorso eccetera eccetera, la rifiuterebbe per rivincere, per andare a un certo livello la Juve? Ecco, lì torniamo al discorso in chiave diversa, ma al discorso che facevo prima. Il calcio va letto, lo sport di squadra va letto in 2 fasi, quella offensiva e quella difensiva. Spesso fare un grande mercato significa anche rinunciare a grandi offerte per dei giocatori che ritieni irrinunciabili per il tuo progetto. Io credo che, a parte il fatto che Dybala ha appena rinnovato con ampia soddisfazione, mi pare, da entrambe le parti, credo che la Juventus rifiuterà qualunque offerta per Paolo Dybala in questa stagione. Poi in futuro vedremo, però io credo che in questo momento nei piani della Juventus ci sia, nei piani futuri della Juventus ci sia questo giocatore. Gianfranco da Verona, buongiorno. Buongiorno, allora volevo raccontare una cosa che mi dispiace purtroppo se la dico, perché nessuno ha raccontato che Allegri ha cambiato il gioco del calcio. In che modo? Ha fatto un centrocampo che è quello fondamentale per la squadra di calcio, se uno ne capisce un po' di calcio. Sì. Non può dimenticare il centrocampo, perché è il valore, il valore in più della squadra. La Juve, dove non ha avuto ultimamente un centrocampista, che perché aveva Marchisio e l'ha lasciato in panchina, Allegri ha costruito una squadra che tutti quanti formano un centrocampo da poter attrarre il pallone per sottrarlo dalla difesa e portarlo all'attacco. Sì. Allegri ha fatto un calcio nuovo e nessuno ha capito che Allegri nel 2017 ha trovato un sistema nuovo che le altre squadre ci arriveranno fra 10 anni. A me dispiace. No, non si dispiace, anche perché è stato notato questo anche oggi e in ripetute altre occasioni. La stessa cosa però non l'ha fatto solo Allegri. Primo, citato il Milan di Ancelotti, l'albero di Natale, che lei si ricorderà, che aveva a centrocampo un solo incontrista che era Gattuso, poi per il resto c'era la qualità di Seedorf e Pirlo, e davanti c'erano Rui Costa e Kakà, e la stella in cima all'albero di Natale era Shevchenko. Si è ricordato, e lo ha fatto Marocchi, il Real Madrid di Ancelotti, che ha fatto spazio a tutto il talento e a tutte le stelle che aveva in quel centrocampo. In Europa si vince in questa maniera, quindi Allegri è stato bravissimo a farlo in questa situazione, ma non è qualcosa che non avevamo mai visto nella storia del calcio, pur essendo fatto Mourinho stesso, e l'abbiamo citato pure oggi, che ha convinto il signor Eto'o almeno per una stagione a farsi il mazzo giocando terzino. Poi giustamente Marocchi ha sottolineato, a fine stagione andato in sé, ha detto: ragazzi, stanno va bene, ho suonato tamburo, però io sono un suonatore di tromba, sono un primo violino, l'anno prossimo mi metto in mezzo all'attacco. Vincenzo Martucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Clicco a proposito tutti... di alberi di Natale. Sì, eh? A proposito di alberi di Natale. Clicco tutti i giorni Sport Senators anche per vedere cosa scrive il mio amico Luca Chiabotta. Deve diventare una dipendenza, dai, scriviamo sì, delle cose diverse. Lo è già, anche se io sono contro le dipendenze tecnologiche, però in quel caso lo è già. Senti, notizia bomba nel mondo del tennis: Serena Williams è in dolce attesa, e stando alle cronache lo era anche quando ha vinto gli Australian Open, attenzione. Eh beh, certo, questo dimostra quanto sono scarse le seconde. Se non sei cattivo. Beh, però è vero, dai, voglio dire, adesso siamo tutti cattivo a sperare che torni da Sharapova, almeno porta un po' di personalità, di grinta, di qualità a questo tennis femminile, che obiettivamente, insomma, sta offrendo pochino. Le giocatrici che non sono Serena, non sono Sharapova, sono molto incomplete, a cominciare dalla Kerber, la Pliskova. A tutte loro manca qualcosa di fondamentale: vuoi talento, vuoi continuità, vuoi fisico, vuoi cattiveria. E nel momento in cui, il giorno in cui Sharapova compie gli anni e sta per tornare a pochi giorni a Stoccarda, a Serena, la sua grande avversaria, quella che la batteva sempre, annuncia che è incinta. E certo, è una bella notizia, vuol dire bella notizia per Sharapova, bella notizia comunque per lei, per Serena, che obiettivamente si meritava comunque una soddisfazione extra sportiva. Non dimentichiamo che questa ragazza, al di là delle battute che si possono fare sul suo peso, sul suo aspetto, sì, obiettivamente ha fatto molta molta più fatica di Venus, della sorella, ha un fisico abbastanza infelice, e nonostante questo, facendo dei sacrifici immensi, perché io l'ho vista a tavola, veramente questa ragazza mangia con grandissima attenzione, e sono successe anche delle cose strane. Non dimentichiamo quella famosa trombosi di anni fa, l'operazione improvvisa, cioè questa ragazza ha fatto dei grandi sacrifici ed è stata il numero uno del mondo e ha vinto 23 titoli dello Slam. Sua Maestà di tutte le Russie, invece di sacrifici, immagino ne faccia pochi a tavola. Ma l'abbiamo, ma lei stesso ha detto, no? Adesso uscirà questo suo libro, curiosamente, La macchina da soldi come lei, eh? Fa, scrive il libro, l'autobiografia. Guarda, ma sai perché? Perché aveva tempo. Aveva certo, tempo durante certo. La squalifica, mica peraltro. Non c'è niente di calcolato in tutto questo, Vincenzo. Come sei malizioso? Certo, ma chi sa, addirittura le caramelle che si chiamano come lei. No, io ecco, questo la rende. L'altro giorno, proprio appunto, scrivevo una cosa su sul fatto di Sharapova, cioè lei la ami e la odi, odi, tami, perché ha studiato il latino, non c'è niente da fare. Cioè, nel momento stesso in cui è bella, è algida. È una bella ragazza, ha una classe immensa, sta bene sia in tailleur come in costume da bagno, mentre poi la povera cambia centro, fidanzati come Kleenex, fa quello che vuole, voglio dire, ha distrutto dei cuori ovunque, decide lei cosa fare di tutto, nello stesso tempo però è simpaticissima, non è, cioè io le ho fatto due interviste nella mia carriera e la prima volta non dimenticherò mai, né lei si dimenticherà di me, perché dopo due secondi si è alzata, dico beh è finito, gli dico guarda che io veramente questa volta lo scrivo come sei fatta tu. Dopo 5 secondi è tornata lì buona buona, si è accucciata lì e si è resa conto che insomma che era ridicola, cioè proprio fanno quello, fa quello che vuole, però è un po' sprezzante e secondo me anche questa pena che le è stata combinata del popping è arrivata un po' all'apice proprio del suo atteggiamento, ecco. Sì. Poi le hanno dato lo sconto, però ecco, una giocatrice con un atleta così sprezzante io non me la ricordo. Sì, le hanno dato lo sconto, però in molti grandi tornei le concederanno una wild card. Ma Roland Garros non si è sbilanciato e aspetterà il 15 maggio perché il nuovo signore presidente del tennis francese, che poi si chiama Giudicelli. Giudicelli o Giudicelli ha detto che l'integrità è uno dei nostri impegni forti, non si possono aumentare i fondi per la lotta al doping e poi regalare delle wild card, questo è stato detto. Sì, però se ci pensiamo bene, obiettivamente nel momento stesso in cui ti dico che io la trovo antipatica come atteggiamento, lo è sempre stato, io dico che la ragazza la sua pena l'ha scontata, quindi avendo scontato la sua pena è vero che lei non avrebbe la classifica per rientrare in un torneo come Roland Garros, però è anche vero che lei Roland Garros lo ha vinto, è anche vero che rientra perché non può avere i punti, è anche vero che in tutte le giocatrici che si schierano al via del Roland Garros ce ne sono 4 che possono vincere e una di queste è lei, quindi insomma il gioco non è poi tanto salvo se una giocatrice non viene messa alla pari delle altre. Ecco, ti ripeto, nello stesso momento in cui la critico per certi suoi atteggiamenti, però obiettivamente per l'onestà del gioco stesso lei meriterebbe una wild card. Sì, sono d'accordo con te e purtroppo mi rendo conto che il tennis femminile è in crisi, perché oggi abbiamo parlato di due grandi tenniste, una che mi sembra compirà 36 anni il prossimo agosto, l'altra che ne ha 30, sì, insomma sì, stiamo parlando. Ne ha passati tanti fuori, perché non dimentichiamo che tutto questo, tutte e due, anche Serena, spesso se n'è andata, qualche volta per volontà sua, qualche volta perché si è fatta male, ma la stessa Sharapova ha avuto due gravissimi infortuni, adesso si è fatta un anno buono fuori, cioè non è che siano state sempre presenti. No, c'erano una volta le bimbe prodigio, c'erano sì, una volta, non ci adesso, sono più, adesso non solo ci sono la Hingis più. Che gioca ancora, la Hingis che con tutto quello che ha avuto, anche lei i suoi problemi anche di cocaina, le sue battaglie impossibili contro queste virago del tennis, eppure numero uno del mondo, gioca quando vuole, vince i suoi tornei, cioè questo ti fa capire come il livello delle altre sia molto più basso, un tempo il livello medio alto era più alto. Grazie Vincenzo, sempre un piacere. Arrivederci, grazie a voi. Ti leggo tra i senatori dello sport facendo un click. Grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzano in redazione. Ci sentiamo da Radio City in diretta. Veniteci a trovare, Piazza Gaulenti, domani pomeriggio alle 14. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.